ascoltarle, queste sono le mie perle, che ti svegliano quando vorrei ascoltarle. I consigli di Ness sono sberle, te le do gratis o puoi pagarle. Non scordarle, queste sono le mie perle, che ti svegliano quando vorrei ascoltarle. I consigli di Ness sono sberle, te le do gratis o puoi pagarle. Non ho nessuno scopo e sono felice, sì, sono nessuno scopo e vivo felice. Vi do consigli e scopro che chi sembra felice porta una maschera e qualche cicatrice. Osservo e provo a darvi consigli, ma perdo solo tempo come voi coi vostri figli. E quando crescerai anche tuo figlio avrà una madre, dagli un futuro e lascia quelle strade. Così crescerà e diventerà un buon padre. Trovate un uomo che li faccia da padre. Vabbè, ritorno a stare zitto, mi faccio i cazzi miei. Continuo pure a dirmi che non parlo e non direi che sono maleducato e non so trattare la gente. Che ad ogni complimento io rimango indifferente. Il mio consiglio, fate orecchie da mercante. Secondo me la gente che parla troppo è imbarazzante. Ascoltarle, queste sono le mie perle, che ti svegliano quando vorrei ascoltarle. I consigli di Ness sono sberle, te le do gratis o puoi pagarle. Non scordarle, queste sono le mie perle, che ti svegliano quando vorrei ascoltarle. I consigli di Ness sono sberle, te le do gratis o puoi pagarle. Puoi ricomprare tutto tranne la fiducia persa. Io c'ho un'età per mandarti a fanculo per via traversa. Pochi anni mi separano dal mezzo secolo. È più di un lustro che lustro il mio disgusto, eccolo. Non ho niente da insegnare, molto da imparare. Aspetta e spero, ma qui si continua a sparare. Solo cazzate, mi accorgo di sprecare fiato. Meglio che sto zitto ed essere odiato. Per quello che sono i miei consigli non si adottano. Ognuno viva i suoi problemi che si fottano. Con tutte le mie perle ci avresti fatto una collana. C'è chi ha preferito la sua strada, quella da puttana. Contenuti espliciti, io quello che dico, sai, parlo in faccia soprattutto se sei mio amico. Dai, ma ora è troppo tardi per un don't dare. Credo che non hai ascoltato i consigli di Ness. Non scordarle, queste sono le mie perle, che ti svegliano quando vorrei ascoltarle. I consigli di Ness sono sberle, te le do gratis o puoi pagarle. Non scordarle, queste sono le mie perle, che ti svegliano quando vorrei ascoltarle. I consigli di Ness sono sberle, te le do gratis o puoi pagarle. Fatta botte molto spesso col riflesso nello specchio. A volte ho perso il senso di essere vecchio. Quella saggezza che mi contraddistingue da chi dà consigli solo per muovere le lingue.